Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Nella vostra trasmissione di venerdì scorso, dedicata a Saviano, è intervenuto un signore che ha asserito di essere un poliziotto con 24 anni di servizio, tutti passati a combattere contro la mafia, per un misero stipendio di 1.500 euro al mese. Diceva inoltre che con tre figli a carico, a fatica riesce ad arrivare a fine mese. Questa persona ha criticato l'autore di Gomorra perché scrivendo della camorra si è arricchito e ora si lamenta e vuole andare via dall'Italia, eccetera. Sono un po' stufo di sentire presunti appartenenti alle forze dell'ordine che piangono perché percepiscono uno stipendio da fame e rischiano la vita ogni giorno, che quando escono di casa guardano i propri familiari non sapendo se torneranno vivi e altre baggianate del genere. Sono un operatore della Polizia di Stato con 29 anni di servizio e posso assicurare che un semplice poliziotto con 24 anni di anzianità che svolge una normale turnazione esterna percepisce oltre 1.700 euro mensili netti, non inclusivi di eventuali straordinari e assegni familiari. Lo stipendio di 1.500 euro con tre figli a carico viene superato anche se si sta in ufficio o a fare il piantone in caserma. Bisogna poi tenere presente che gli operatori di polizia più esposti al pericolo nelle classiche zone di mafia, ovvero nel meridione, sono quelli dei reparti investigativi e operativi, dove non è facile riuscire a entrare anche se lo si desidera. Per farla breve e generalizzare un po', si può dire che di norma si rischia di più se lo si vuole. Detto questo, si può tranquillamente dire che spesso le risorse umane ed economiche sono utilizzate malissimo, a scapito della produttività, la normativa che non ci tutela e i noti problemi del sistema giudiziario e penale fanno il resto. Sono operatore di polizia per scelta e nessuno mi costringe a farlo. Lo stipendio che percepisco, sufficiente a condurre uno stile di vita più che dignitoso, è comunque superiore a quello di altre categorie di lavoratori che rischiano la vita e la salute ben più di me. Franco. Se un poliziotto, che per mestiere lotta contro la criminalità, si lamenta di quanto prende, dovrebbe volgere altrove la sua frustrazione. Ai governanti, agli sprechi dei parlamentari, di altre categorie privilegiate, eccetera. Mentre prendersela con Saviano sa anche di invidia, di malevolenza fuori luogo, di disprezzo per la cultura. Guardiamo le statistiche su quanto leggono gli italiani e ancor più i meridionali rispetto agli altri europei. Per cui un libro come Gomorra è visto, probabilmente, da gente che neppure l'ha letto, come un libro fra tanti, un libro inchiesta dei tanti che escono in questi ultimi anni. Il che non sarebbe nulla di negativo, tra l'altro. Ma Gomorra è di più, e lo attesta il suo successo internazionale. Incredibile per un libro che non ha una trama, non è un giallo e non parla di templari. Un successo concorde di critica e pubblico. Di sicuro possiamo dire che il giovane, ricordiamolo, davvero giovane, Saviano, era conscio di scrivere qualcosa di importante, di pesante, di corposo, anche di inaudito. E penso che una vaga idea del rischio che correva dovesse pure averla. Ma il successo strepitoso e insieme la fatua contro di lui, questi non credo proprio che se li fosse immaginati. Non ha scritto per diventare famoso e farsi i soldi. Un libro così è una sfida, anche formale. Non è un saggio, non è un romanzo. Sta a metà, ma senza pedanterie. Poteva essere un flop totale, passare inosservato. Ma basta sentire i giudici che dicono di usarlo come strumento di lavoro. Davvero triste che ci sia gente che se la prende con lui o ci tenga così tanto a ridimensionarlo. Alessandro. Che si può dire di un paese dove un fior di delinquente si permette di condannare a morte Saviano? Per me quel delinquente doveva stare a spaccare pietre 8 ore al giorno con la palla al piede in qualche cava della Sardegna, dimenticato dagli uomini e dai mezzi di informazione, senza la possibilità di impartire ordini dal carcere. Ma da un paese dove ci si preoccupa di una petrella, poverina, e dove chi massacra i genitori viene tranquillamente rimesso in circolazione senza aver scontato interamente la pena, cosa ci si può aspettare? Solo garanzie per chi delinque. Carlo. Sono uno studente di scienze politiche di Milano e venerdì scorso ero in università, dove alle 8:30 ho frequentato regolare lezione. Intorno alle 12 l'università è stata invasa da un furgoncino che, entrato senza permessi nel cortile, ha dato inizio all'occupazione. in nome della libertà hanno subito provveduto ad interrompere le lezioni, ancora in atto. Ne è seguita un'assemblea di istituto. Non è stato fornito alcun dato concreto sul DDL Gelmini. Non è stata fatta nessun tipo di proposta per sistemare le università. In compenso, uno dei temi più ricorrenti era la preoccupazione di come organizzare la notte bianca in università, su chi doveva fare i panini, chi spillare la birra e chi mettere la musica. La discussione si è spinta fino a critiche sull'economia di mercato, in senso lato, definito un sistema criminale causa dei mali del mondo. C'è anche da aggiungere che moltissimi partecipanti erano esterni e non studenti o professori di scienze politiche. In conclusione, un gran calderone fatto per iniziare il weekend con un giorno di anticipo. Fabrizio. Egregio direttore, vorrei fosse fatto presente al governo che lo sciopero degli insegnanti è un problema che deve coinvolgere la scuola, ma non gli alunni e le famiglie. Se i dipendenti di un'azienda privata partecipano a uno sciopero, i clienti di questa azienda non sono comprensivi ed esigono il rispetto del contratto. E come ogni contratto moderno, al mancato rispetto corrisponde una penalità. Non mi sembra corretto che quando si parla di servizi statali, il cliente, dunque il cittadino, debba subirne le conseguenze. Gli autobus, le scuole, gli sportelli pubblici in generale devono garantire il servizio anche a fronte di disagi come lo sciopero, come avviene negli ospedali. Non si può impedire al cittadino di andare al lavoro perché scioperano i conducenti di mezzi statali o parastatali come bus, corriere, treni e aerei. Allo stesso modo non si possono interrompere gli impegni della famiglia perché gli insegnanti hanno diritto allo sciopero. Il loro diritto non può ledere il mio. La scuola, che è l'azienda, si deve assumere le responsabilità e organizzarsi di conseguenza. Forse così gli scioperi per motivi politici finiranno di esistere e ci saranno solo scioperi come ultima risorsa per ottenere diritti non riconosciuti. Ricordo infine che i rappresentanti sindacali sono eletti affinché portino le richieste di molti in contrattazione. Se non ci riescono o non si ritiene siano all'altezza, devono essere sostituiti. La leva dello sciopero non può essere usata come accadeva quando le persone erano così sottopagate da non riuscire a vivere, nonostante 16 ore di lavoro al giorno per 6 o 7 giorni la settimana. Ritengo che la situazione italiana sia così grave, debito pubblico, servizi non all'altezza di quanto si paga, criminalità, eccetera, che la priorità per ognuno sia di fare al meglio il proprio lavoro, dando il contributo, se possibile, segnalando idee, pensieri, progetti, ma senza creare ulteriori costi e disagi. Stefano. Egregio direttore, in questi giorni numerosi sono stati gli interventi sulle manifestazioni contro il decreto legge del ministro Gelmini. Alcuni si sono espressi in favore dei dimostranti, anche persone che hanno votato il centrodestra. Altri hanno espresso il loro disappunto per qualcosa che sa di vecchio e di stantio. Mi chiedo, perché, data la vostra linea editoriale di punzecchiamento continuo di chi è al governo del paese, non urlate che i tagli alla spesa pubblica dovrebbero prima essere predisposti per i nostri rappresentanti in Parlamento? Perché tutte le promesse sulla riduzione del numero dei parlamentari, sull'abolizione delle province, sui vari interventi per alleggerire il carrozzone statale spariscono e si riducono come sempre ai tagli sulla scuola, facendoli passare per illuminata riforma del sistema scolastico? Perché continuate ad incensare il ministro Brunetta quando i parlamentari sono i primi a non essere presenti sul posto di lavoro e continuano a percepire onorari e buoni e premi e pensioni che solo a pensarci verrebbe voglia di rovesciare tutto e tutto passa sotto silenzio? Chi, se non voi, l'informazione, ha voce per denunciare quotidianamente quanto noi cittadini, popolo sovrano, capace di esprimersi solo con una croce su un simbolo, senza neanche poter più scrivere un nome, dobbiamo subire senza possibilità di difesa colpi di decreti legge e voti di fiducia? Ci vorrebbe anche qui un Saviano a smuovere le acque. Immagino però che si troverebbe più isolato del giovane scrittore che ha osato denunciare la camorra, anche se non in pericolo di vita. Fiorella. Carissima Fiorella, vorrei rassicurarla. Continueremo nel nostro impegno per una pubblica amministrazione sempre meno costosa e sempre più efficiente. Non mancheremo occasioni per sottolineare la necessità di ridurre il numero dei parlamentari e di rendere più trasparente la politica. Sono e resto convinto che uno dei grandi problemi italiani sia proprio la distanza tra i cittadini e la politica, sia il considerare lo Stato come qualcosa di lontano e diverso rispetto alla responsabilità di ciascuno. Non perdiamo la fiducia. Per esempio che si possano reintrodurre le preferenze nella legge elettorale in modo che i parlamentari vengano veramente scelti dai cittadini e non solo dagli apparati dei partiti. Mi permetta però, cara ascoltatrice, un'osservazione in merito alle vicende della scuola, e le faccio questa osservazione ricordando un recente intervento del presidente Napolitano. Non si può sempre dire di no. Non si può continuare a dividere tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Se vogliono avvicinarsi all'Italia, maggioranza e opposizione devono iniziare a dialogare sulle cose concrete. Non è solo possibile, è doveroso per chi ami veramente un grande paese come il nostro. Spettabile redazione. Io non sono razzista, però, è una frase di moda in questi anni, detta da chiunque voglia parlare dell'immigrazione o dell'immigrato in sé. Perché bisogna premettere una cosa che dovrebbe essere normale? Una risposta c'è, ed è semplice. Si ha paura di affrontare e risolvere questo problema. Trovo sia scandaloso che ogni volta che si prova a trovare una soluzione ragionevole ci sia una levata di scudi con accuse di razzismo, eccetera, da parte di certe menti illuminate. I razzisti, o più esattamente fomentatori di false prospettive, sono tutti quelli che difendono e benedicono l'immigrazione clandestina al motto di «venite che qui c'è benessere per tutti», senza pensare che questi devono pur mangiare e trovare da dormire e spesso sono costretti a delinquere o farsi sfruttare, in barba ai sindacati. Perché difendere l'immigrazione clandestina? Non è forse come aiutare un tossicodipendente comprandogli la dose per farlo stare bene anziché cercare di curarlo? Perché non si prende una drastica decisione, facendo una grande sanatoria, che regolarizzi chi lavora clandestinamente, ma allo stesso tempo prevedendo che si possa entrare in Italia solo con il permesso di soggiorno, un lavoro e una casa, ovviamente ottenuti tramite l'ambasciata del proprio paese? È tanto difficile fare una cosa del genere. Sento dire che gli immigrati ci pagano e pagheranno le pensioni con i contributi. Dobbiamo però dire quanto ci costano in termini di integrazione. Hanno un basso reddito e famiglie numerose, e quindi poche tasse da pagare. Usufruiscono di assegni familiari, case popolari, sanità, familiari a carico, contributi comunali per asili, eccetera. Anche i clandestini che non pagano i contributi ricevono comunque un'assistenza minima. Alessandro. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.